Il termine apocrifo deriva da una parola greca che significa nascosto. Si tratta di una denominazione dovuta all'agnosticismo, una corrente di pensiero dei primi secoli, contro la quale il cristianesimo ortodosso lottò a lungo. Un termine che, applicato ai libri, designava quei titoli che, per gli gnostici, era destinati solo a lettori particolari, agli anziani, e che dovevano rimanere inaccessibili al lettore comune, agli occhi del quale erano tenuti per l'appunto nascosti. Da qui la Chiesa adottò il termine per indicare tutti quei libri che, se da un lato narravano di Gesù e delle attività degli apostoli, dall'altro però non potevano vantare una provenienza apostolica e non erano quindi da leggersi nelle celebrazioni liturgiche. Tra questi libri apocrifi sono i Vangeli, i quali sono stati e continuano a essere poco considerati dalla religione cattolica e dalla teologia ufficiale. Per esempio, Rino Fisichella, per anni docente presso la Pontificia Università Gregoriana, li liquida, dicendo che non possono avanzare alcuna pretesa di narrazioni attendibili, mentre il gesuita Karl Rahner, uno dei più ascoltati teologi del Novecento, li descrive come contenuti fantastici, ignota provenienza e autori eretici. Eppure, non mancano dati che, per quanto attestati unicamente negli apocrifi, la religione cattolica e la secolare tradizione romana hanno fatto propri. I più clamorosi riguardano la Madonna e innanzitutto i suoi genitori, della cui esistenza e nomi siamo a conoscenza solo grazie agli apocrifi, in particolare al Protovangelo di Giacomo. Ciò non impedisce alla religione cattolica romana di celebrare ogni 26 luglio, come recita il Messale, la memoria dei santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Poi vi è la festa della presentazione di Maria al Tempio, che nel calendario liturgico cade il 21 novembre e sconosciuta nei testi canonici, ma citata solo nel Protovangelo e nel Vangelo dello Pseudo Matteo. Sempre per quanto riguarda la Madonna, dal momento che i Vangeli canonici si esprimono con chiarezza solo sul suo concepimento virginale, senza riguardo per il suo stato successivo, mentre dagli apocrifi emerge l'attestazione più esplicita della sua verginità reale e perpetua anche nel parto del Figlio di Dio, fatto uomo. La verginità sin parto e post partum è realmente importante per la letteratura apocrifa, da costituire una delle ragioni del suo sorgere. Infine, non nei testi biblici canonici, ma ancora una volta negli apocrifi, si trova la più antica testimonianza dell'assunzione in cielo di Maria, proclamata infallibilmente dogma della religione cattolica romana da Pio XII, il 1 novembre 1950. Dagli apocrifi provengono anche altri elementi cari alla tradizione del cattolicesimo romano, come la presenza del bue e dell'asino accanto alla culla di Gesù e i nomi dei tre re magi, Gasparre, Melchiorre e Baldassarre. Il fenomeno che accomuna a tutti i Vangeli apocrifi è lo pseudoepigrafia, ossia la finzione letteraria, in virtù della quale, per conferirle maggiore autorevolezza, si attribuisce l'opera a un celebre personaggio della storia evangelica. Abbiamo i Vangeli, che sono presentati come opera di Maria, Pietro, Giacomo, Andrea, Tommaso, Filippo, Matteo, Bartolomeo e persino dei 12 apostoli tutti insieme. Questa è la realtà storica e religiosa, una realtà della quale non tutti sono consci e che si ripercuote anche nella società sia laica sia credente. Se apocrifo è ciò che è nascosto, anche il nostro modo di atteggiarsi nella vita procede da elementi a noi tramandati e dei quali non siamo coscienti. In un certo senso, un subconscio che determina azioni e parole. Se il credente cattolico romano legge la Bibbia, crede fermamente in un Dio trino e in Gesù quale salvatore del mondo perché tutti gli uomini sono peccatori, e crede anche che Gesù sia l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, tuttavia, gli insegnamenti che riceve dai libri apocrifi hanno il potere di prevalere sulla verità della parola di Dio. Perciò, pur credendo che tutti siamo peccatori, nessuno escluso, ritiene anche Maria immacolata nella sua concezione. In definitiva, un essere umano più perfetto di Cristo Gesù, il Figlio di Dio, perché Gesù è nato immacolato, cioè senza peccato, per opera dello Spirito Santo. Mentre Maria sarebbe nata immacolata, mediante l'unione di un uomo e una donna peccatori. Un miracolo questo, che supererebbe quello di Gesù. Il credente cattolico crede che Gesù sia l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, cosa del resto dichiarata apertamente anche dal Papa. Ma, nonostante questa professione di fede, la mente apocrifa gli permette pure di avere altri mediatori tra Dio e gli uomini. In merito poi alla verginità perpetua di Maria, il cattolicesimo romano può emanare i dogmi che vuole, tanto nessuno può provare e contraddire niente. Ma vale la pena tenere presente questa fonte apocrifa, perché è quella che obbliga gli studiosi biblici cattolico-romani a fare salti mortali per dimostrare mediante la Bibbia che Maria non ha avuto altri figli. Una mente apocrifa impedisce l'obiettività. Spesso i contenuti letterali fantastici, di ignota provenienza e di autori eretici, hanno un potere devastante e, se non si pone la propria conoscenza sotto all'autorità della scrittura, con un vigoroso atto di volontà, si arriva a credere solo ciò che si ritiene bene e logico ai propri occhi. Dovremmo tutti compiere un atto di onestà intellettuale, difficile da mettere in pratica. Tutti, ma proprio tutti. Siamo più inclini a credere alle menzogne che alla verità. Dobbiamo umilmente ammetterlo. Il Dio delle Scritture ha detto tramite il profeta Habacuc: guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, anche se ve la raccontassero. 1:5. Certo, noi pensiamo che queste parole non siano rivolte a noi. Pensiamo di non essere come il popolo di Israele, che ha rigettato e crocifisso il Figlio di Dio. Pensiamo di non essere come l'apostolo Pietro, che proferiva delle cavolate, al punto che Gesù gli disse: «Vattene via da me, Satana», e pensiamo pure che non avremmo rinnegato Gesù per 3 volte. Ma la realtà è tutt'altra. Innanzitutto, ad aver creduto il messaggio di Cristo sono in pochi, pochissimi, e a viverlo concretamente sono ancora meno. Anche se non ci rendiamo conto, siamo guidati più da contenuti letterali fantastici, di ignota provenienza e da autori eretici, che dalla parola di Dio. Ho ancora presente l'intervista al popolo inglese, trasmessa in televisione, in merito al valore da essi attribuito alla Bibbia, nel corso della quale una donna con una certa stizza dichiarò: «Io non permetterò mai che la Bibbia condizioni il mio modo di vivere». Incredibile. Chi, in materia di fede e di condotta, si lascia condurre dall'autorità di una chiesa, sia cattolica, sia protestante, non può sottomettersi alla parola di Cristo Gesù, e i suoi comandamenti non servono ad altro se non a migliorare la morale e condotta individuale. Per queste persone la fede nelle parole di Cristo non ha il potere di andare al di là della pura conoscenza, perché una mente apocrifa impedisce loro di abbandonare la menzogna a favore della verità o di cambiare dal compiere un mero rituale religioso al mettere in pratica contenuto morale di tali divini comandamenti. Nulla di nuovo, perché anche migliaia di anni fa l'apostolo Paolo preannunciò un tale apocrifo comportamento con queste parole: «Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini avranno l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza». 2 Timoteo 3:1. Chi rappresenta queste persone, se non chi dà retta a contenuti fantastici di ignota provenienza e autori eretici? Allontanarsi da una mente apocrifa significa andare controcorrente. Se anche si è criticati e condannati, consola tuttavia il fatto che in uno stagno si trovino moltissimi pesci, sia vivi sia morti. Ma solo quelli vivi vanno controcorrente. Il che vuol dire che occorre possedere un qualcosa non dato a tutti. A proposito, riporto una testimonianza letta in qualche giornale, mentre aspettavo il mio turno dal dottore. Ho 94 anni e ho il sospetto che se avessi dato retta ai medici non sarei qui a scrivere. A 26 anni caddi da un albero e il giorno dopo fui colto da un forte mal di schiena. Mi recai da uno stimato medico, che mi prescrisse delle medicine. Dopo un mese di cura e nessun miglioramento, mi spedì da un altro dottore. Analisi su analisi, poi il referto CHOC, TBC renale. A quel tempo se ne moriva. Nel frattempo fui chiamato alle armi, mi presentai con tutti i documenti e il colonnello medico mi disse: «Tu stai bene, fra un mese raggiungerai il tuo reggimento». Andai in guerra e fui fatto prigioniero. Finita la guerra tornai a casa ed ebbi un incidente al ginocchio. Feci il giro degli ospedali di Bologna e chiunque mi visitava voleva operarmi. Mi opposi strenuamente e ancora oggi cammino benissimo. In seguito fui ricoverato per una febbre e imbottito di cortisone. Non volevo assolutamente quella cura, che mi stava avvelenando il fegato, ma i medici facevano i sordi. Allora, di nascosto e d'accordo con la suora che faceva le iniezioni, smisi di prendere il cortisone e chiesi di essere mandato a casa. Un dottore, scoperto il fatto, mi disse che non avrei potuto neppure fare le scale. Oggi sono qui a chiedermi se è il mio corpo a rifiutare i farmaci per guarire da solo o se ho avuto qualcuno che mi ha protetto. Gesù disse che sono i malati a aver bisogno del medico e questo è vero, ma una totale fede in essi non è saggia. Una mia amica e sorella in fede, che ha vissuto passando da un ospedale a un altro, dopo che le era stata tagliata la lingua e altre parti del corpo, mi confidò poco prima di morire: «Ellero, tornassi indietro, non crederei più ciecamente ai dottori». Queste testimonianze mi dicono che, nell'ambito spirituale, le cose non sono diverse. Chi vuole avere una vita abbondante e sana, davanti a Dio, non deve dipendere ciecamente dagli altri, siano essi laureati o no, teologi o no. Ho cercato sempre disperatamente la verità, e a qualsiasi costo, perché amo la verità e l'immortalità, più di qualsiasi cosa umana, che è passeggera. Anch'io ero preda di una mente apocrifa, anch'io davo retta a contenuti fantastici di ignota provenienza, ma, quando 50 anni fa la verità è stata rivelata alla mia mente per mezzo dello Spirito Santo, ho cambiato il mio modo di pensare. Ravvedimento, ho cambiato il mio modo di vivere, conversione, e ho fatto di Gesù e delle sue parole la mia stessa esistenza. E ho fatto bene, molto bene, e lo dico a 70 anni. Ellero,